Guarda che roba, sono le 8 e 40 secondi all'orologio di Rock FM, eh? Pane, burro e rock and roll. Seconda ora della nostra trasmissione. La tua colazione rock. Diretti fino alle 9, ragazzi. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. La miglior colazione in circolazione a quest'ora nell'etere con l'Ariele. Ciao, Spadino. Roberto Fricantoni e i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici. 335-100-7777 il numero di SMS. Non state lì a smanipolare, a cercare i radiogiornali, tanto dicono le stesse cose, guardate. Allora oggi vi dicono che la Clinton e Obama sono pari ancora, cioè Obama dice che ne ha un po' di più, ma è quella roba lì. Poi la Clinton è un po' disperata perché ha dovuto mettere lei 4 milioni di dollari per pagarsi la sua campagna elettorale perché ha finito la pilla. E poi tipo che hanno pubblicato un SMS di Sarkozy mandato 8 giorni prima di sposarsi con la Bruni alla moglie, che gli diceva: se torni mollo tutta la situazione. Questa è figa di roba, è carina. O se torni mollo tutto. Grande Sarko. Iniziamo la seconda ora con il brano di... Così, oggi ho iniziato con la rassegna stampa. Vi va? La teniamo, redazione, ti piace? La rassegna stampa così, quella un po' cheap, copiazzata da quello che hai sentito dalle altre parti. Va bene, ci penseremo. Brano di Easy Rider. Gran roba. 10 years after. Subito dopo, ormai abbiamo preso l'abitudine, telefonata in cerca di sponsor. Siamo nel reparto autovetture, visto che la mia mi ha mollato, cerchiamo di farci regalare la macchina da qualcuno. Iniziamo con 10 years after, dicevo, 1969, dal capolavoro Shh, che è il titolo del disco, Bad Scene. Questa è la nostra seconda ora, restate con noi. Inizia con i cigolii, Bad Scene, sì, così. E non si capisce cosa stanno facendo. Stanno facendo qualcosa a frigo e rogna. Questa cos'è, la Skoda? Su clienti Skoda, sabato 2 e domenica 3 febbraio, no, i concessionari Skoda ti aspettano a porte aperte per provare la porta aperta alla Renault era. Nessuno ti ama come un concessionario. Che macchina Skoda. Ha la Skoda? Buongiorno, sono Alberto, come posso essere utile? Buongiorno, sono Ariel di Rock FM, trasmissione radiofonica Pane, Burro e Rock and Roll. In compagnia del mio collega Roberto Fricantoni degli Schianto. Buongiorno. Stiamo capendo un po' come proporre una sponsorizzazione della nostra trasmissione, che va abbastanza bene, sì. Ascolti molto alti. È una trasmissione rock, se posso intervenire. E no, ma è Fricantoni davvero? Sì, degli Schianto. Buongiorno, sono Frick. No. Sono Frick, piacere. Lei veramente conosce Fricantoni? Sì, beh, ovviamente. Citi qualcosa che ci dimostri che non sta mentendo. Mi piacciono le sbarbine. È lui. Allora, questo è lei. Senta, lei possiamo darti del tu? Possiamo, sì, darci del tu? A che piano sei della Skoda tu? Sono molto basso. Ahia, perché noi vorremmo una macchina per Frick. Una macchina per giovani. Una cosa, una sponsorizzazione. Skoda per giovani. Pane, burro e rock and roll. C'è speranza? Potessi io. Ah, vabbè. Senti, ma ci sai consigliare qualche ufficio preposto alla sponsorizzazione? Allora, un attimo che guardo com'è la procedura in questo caso. Mi raccomando. Mi metto in linea, scusate. Prego. Sì. Grazie. Vai, Frick, che questo ti conosce. Chi lo sa, però ci dovrebbe dare lui delle dritte. E poi cambiamo le canzoni d'attesa, mannaggia, Skoda ti ama. Pronto? Sì. Sì, allora, dovreste spedire un fax al nostro, sì, numero. Sì. Ecco, con la richiesta vostra. Ce lo lasci? Sì, 8. Sì. Ok, ma senti, almeno a te te la lasciano la Skoda? Da usare? Sì. No. E tra i modelli quale dovremmo chiedere secondo te? Cosa ne dovete fare? Andare in giro. Andare in giro con magari una... Scaricare roba. No, con l'affiancata, con sull'affiancata una striscia provvisoria, un adesivo provvisorio con scritto Pane, Burro e Rock and Roll, che è la trasmissione, che è il nome della trasmissione, sì, Rock, sì, FM. Fare un po' di promozione alla Skoda e nello stesso tempo alla nostra trasmissione, sì. Ma secondo me la Roomster potrebbe, okay, andare bene, se la conoscete. Roomster, sì, sì, che è quella un po' più particolare, che dava un po' più nell'occhio, okay, secondo me. E che è una via di mezzo, che non è niente, cioè non è particolarmente impegnativa come macchina. Sì. RadioRockFM.com, esatto, trovi tutto lì. La trasmissione è Pane, Burro, Rock and Roll. E fate cosa? Due ore mattutine. Due ore mattutine di varie attualità, rubriche a non finire su, sì, mille questioni. Musica rock. Certo, musica rock. Stand-by. Siamo in stand-by, ci piacerebbe essere lanciati nel mercato sottostante. Ci vorrebbe cecchetto. Adesso cerchiamo un numero. Grazie mille. ciao, gentilissimo. Ciao, grazie. Roberto Fricantoni, un uomo che come tutti noi ha i suoi vizietti e vizioni. Che inizio pericoloso, DJ Ariele. No, dove spogliavo i giornali, avevo pronto lo strano ma vero di quest'oggi. Io volevo confessare ai radioascoltatori che lei è un habitué del bordello. Come l'ha scoperto? Assolutamente no. Sconfermo anch'io, era solo per fare gli stupidi e per lanciare la sigla. Va al bordello, ma fra le squillo ci trova la moglie. Eccala, complimenti. Voleva trasgredire le regole del suo matrimonio tuffandosi nel piacere sessuale di un bordello. Colpa delle preoccupazioni coniugali. Peccato però che la serata di Adam, un signore polacco 42enne, non sia andata proprio a buon fine. Una sorpresa sgradita lo ha accolto all'entrata del locale. Monica, la moglie, era una dipendente della casa di appuntamento di Swinonjuice sul Baltico, dove l'uomo aveva deciso di trascorrere insieme agli amici una notte di puro svago sessuale. Sono rimasto annichilito, mi sembrava di vivere un incubo, ha raccontato il signor Adam al tabloid polacco Super Express, secondo il quale la donna di 32 anni, disoccupata, frequentava da tempo il bordello per racimolare qualche soldarello extra. Infatti le sue assenze in casa le giustificava dicendo al marito che lavorava un paio di giorni alla settimana nel negozio di una zia del paese vicino. Forse, sentendosi solo e trascurato, Adam ha pensato bene di consolarsi al bordello. Sono rimasto senza parole, credevo di sognare, così ha descritto il suo shock al giornale. Dopo l'inatteso faccia a faccia, stomachevole per entrambi, segnaliamo che i due, sposati da 14 anni e con due figli, hanno avviato le pratiche del divorzio. Morale dello strano ma vero di quest'oggi, sa qual è secondo me? Qual è, lo dica. Caro radioascoltatore là fuori, sì, che tua moglie ti dice che va un paio di giorni alla settimana a lavorare nel negozio della zia del paese vicino, ecco, se te lo dice addrizza, ecco, le antenne, antenne sono una metafora delle corna. Ma volevo dire una cosa, scusa, lui voleva andare al bordello, sì, lei era già lì, sì, si potevano mettere d'accordo in maniera spiritosa e perdonarsi, no? Lui voleva trasgredire, lei aveva già trasgredito. Lei, maestro, è un buonista, lei è legato all'happy ending. Ma veniamoci incontro, ma perché separarsi? Tutti e due in fondo erano poi nello stesso bordello. Che bordello. E me che c'è? Don't ever let me be, I only wanna be by your side. Please, don't ever let me be, I only wanna be by your side. Girl, you really got me now, you got me so I don't know what I'm doing, yeah. Oh yeah, you really got me now, got me so I can't sleep at night. You really got me, you really got me, you really got me. Got Me, nella versione dei Van Allen. Qualcuno pensava che il gioco del lotto non fosse rock? Ovviamente lo pensava, prima che pane, burro e rock and roll desse il buongiorno alla sua opinionista preferita. Carla, con chi stai parlando? Pronto. Con chi te la stai chiacchierando, Carla? Avevo un altro telefono, mia sorella. Ma quanti telefoni c'hai, Carla? Il telefono di Carla, il telefonino. Ah, ok. Ma li hai attaccato in faccia adesso? No, no. È lì? Ce la saluti? Te la saluto, sì. Ti saluta. Ricambia? Ricambi, saluti. Ha ricambiato, va bene. Certo. Allora, veloci che c'hai da fare, io ho capito. Abbiamo dato i numeri martedì? Mi hanno segnalato che uno di quelli che hai dato è uscito un sacco di volte. Ma non fa niente, bisogna giocarli ancora, devono uscire assieme. No, ma io non volevo cambiarlo, era solo una segnalazione la mia. Tipo che c'eravamo vicini, capito? Certo, ma i numeri non hanno memoria. Ah, questo è un detto. Allora bisogna giocarli finché te lo dico io. Hai ragione. Allora, perché tanto lo gioco anch'io, eh. No, hai ragione, guarda, l'importante è che lo dici tu. Posso provare a ridirli io, a vedere se li ridico giusti? Sì, dai. Allora, dovrebbe essere Ambi, Cagliari, Genova. Giusto. Il numero è il 18, secco, sì. Cagliari, Genova. Ambi, 18-36, sì. 18-72. Esatti. Tutte, nazionale, un euro. Sì. L'ho detto giusto? Giusto, bravo. Grazie Carla. Prego. Allora dopo se ce la faccio, perché non sono riuscito a venire a giocare martedì. Vabbè. Sono un bischero. Giocali a casa tua. Oggi provo a giocarli a Gallarate se ce la faccio. Giocali a Gallarate. Senti, le frittelle sono venute bene? Le abbiamo mangiate tutte, te le avevo tenute lì. Medaglia. Ma però il carnevale è questo weekend, giusto? Ma niente, ma io ho festeggiato quello del mio paese. Ovvero? Ah, perché non Martedì è Martedì Grasso. E qual è il tuo paese, Carla, se posso chiedertelo? Casirate d'Adda. Casirate d'Adda, qua sul lago, sul fiume d'Adda. Sì, dopo è tra Treviglio, Cassano e Rivolta. Ok, quindi il non Caravaggio. Martedì Grasso, infatti. Va bene. Carla, grazie per i numeri, ci risentiamo martedì, speriamo ricchi, eh? Certo. Ciao, buona giornata. Ciao. Giornata intensa quella di oggi. Nell'ultima mezz'ora i Led Zeppelin col Kazoo. Non perdeteveli! Abbiamo una segnalazione, ragazzi. Alessandro mi ha fatto una segnalazione via SMS da strapparsi i capelli. Medaglia. Colleghi delle altre radio, non copiateci! O almeno date un obolo, ecco. 50 euro a battuta, una roba così, eh? Brick ti va? Sapevo che ti andava. You too! But the streets have no name. I wanna take shelter from the poison. ricorderemo mai di porci una domanda a Pane, Burro e Rock and Roll. Una domanda? Sì. Quale? Quanti soldi avrà guadagnato Fricantoni nella sua carriera musicale? No, non è questa, stavo scherzando, stavo facendo il buffone. Vedi come rido, sì, tirato. No, la domanda è, quello lì, lo vede, quello lì che ci sta ascoltando in macchina, ma quello è un vero rocker o no? Ma... sì, è un capellone, ma sa tutto del rock and roll? Sì, questa è una buona domanda. Certo. Potremmo scoprirlo solo attraverso il test attitudinale. Eccolo qui! Di Pane, Burro e Rock and Roll. Ringraziamo le bellissime veline che sono state assunte per portarci la domanda di quest'oggi. Una domanda secca, veloce e anche abbastanza semplice. La faccio? Ma sì, facciamola. Ricordando agli ascoltatori e alle ascoltatrici che se rispondono esattamente hanno diritto a due bei punti da accumulare per la patente, per ottenere la patente davvero rocker. Esatto. Che feeling molto... che c'è tra di noi, maestro. Se vediamo proprio BB e Bibò, va bene. Perché fa Bibò? Lei, io va faccio bene, BB, che mi piace di più. Lei fa BB. Eh sì, per vedere se non sottolineare. Io faccio Bobò. Va bene. Allora, Bobò. La domanda Bobò di oggi: perché Jim Morrison scelse il nome The Doors, le porte, per la sua formazione? Ipotesi A: Jim Morrison trasse spunto da un passaggio di una poesia di William Blake, If the Doors of Perception Were Cleansed, everything would appear to man as truly it is, infinite. Che dizione, mannaggia. Quando le porte della percezione saranno aperte, tutto apparirà agli uomini come è veramente infinito. Ho tradotto. Oppure ipotesi B. Morrison scelse il nome The Doors, le porte, prendendolo in prestito ad uno slogan molto in voga alla fine degli anni 60, ovvero Open the Doors and jump in the space. Traduco, apri le porte e tuffati nello spazio. Motto utilizzato il più delle volte nei raduni hippie in riferimento alla possibilità di viaggiare, di farsi un viaggio con le droghe. Oppure ipotesi C. Jim Morrison aveva una vera e propria ossessione per le porte che, come lui stesso diceva, sono solo un ostacolo all'entrata. Tra l'altro faceva parte di una comunità hippie che riteneva le porte un vero e proprio simbolo della borghesia, comunque un intralcio, un impedimento. Lo stesso Morrison ha sempre abitato in appartamenti senza porte d'ingresso. Perché ha scelto il nome The Doors? Ditelo ora, ditelo adesso. La risposta ve la diamo dopo. La soluzione tra poco. Restate con noi, la soluzione. A tra poco! Mi ha rubato la battuta.